La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 49 secondi in questo venerdì 26 di febbraio 2016. Grazie per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per telefonare, invece in diretta 800 24 00 24, l'opinione al 349 238 6666. Vi dico subito che torniamo come argomento della puntata lo stesso tema che solo pochissimi giorni fa abbiamo trattato, e parliamo di Libia, Italia e Libia, perché dopo che 3 giorni fa il governo italiano ha raggiunto e ha reso noto l'accordo con gli Stati Uniti per l'utilizzo della base aeronavale dello Snavi, cioè base americana a Sigonella in Sicilia, per droni per azioni in Libia, ieri si è aggiunta un'altra novità istituzionale ancora più rilevante, perché si è riunito il Consiglio Supremo di Difesa, quindi con il capo dello Stato e i membri del governo, e in tardo pomeriggio, anzi in serata di ieri, ha emanato un documento in cui vengono formalizzate, per così dire, alcune condizioni di fondo abbastanza precise, che tenteremo di capire per l'intervento militare italiano in Libia. Ecco, prima di entrare in questi dettagli, di presentarvi il nostro ospite, vi dico solo che l'evento centrale della giornata, conclusosi mezz'ora fa con la conferenza stampa, è stata la visita a Roma e l'incontro con il presidente del Consiglio Renzi, del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Io per i particolari di questa vi rinvio a Focus Economia subito dopo la versione di Oscar con Sebastiano Barisoni. Noi anche torneremo su questo argomento domani, come tutti i sabati, in diretta dalle 10 alle 12, i Conti della Belva, con Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e il sottoscritto. Perché non vi devo richiamare l'importanza di questo incontro, dopo che da novembre in avanti, e soprattutto in questo 2016, i rapporti tra governo italiano, Commissione Europea e impianto delle regole europee si erano molto arroventati. Quindi è stato una specie di incontro di riparazione chiesto da Juncker. Vi dico solo che la conferenza stampa ha avuto 3 punti salienti. È ovvio che sia Renzi che Juncker hanno tenuto molto a dire buoni rapporti, tutto a posto, o quasi. A dire la verità, Renzi, primo punto, ci ha tenuto a dire che resta un punto di divergenza sulle banche e quindi sulla BRRD, il bail-in. Non ha approfondito, purtroppo, Juncker non ha citato questo punto, i colleghi presenti non hanno fatto domande sulle banche, quindi resta un punto interrogativo su quale sia la reale portata di questo contrasto, se davvero la richiesta di moratoria italiana di un bail-in c'è oppure no. Invece sugli altri 2 punti, cioè sull'interpretazione della flessibilità in quanto a deficit e debito pubblico, Renzi ha tenuto a ribadire, come già nel documento italiano uscito la settimana scorsa sul sito del Tesoro e del Governo, che c'è un'interpretazione totalmente omogenea, unitaria, convergente con il testo della Commissione Europea d'inizio 2014 su come si interpreta la flessibilità, quindi non ci sono richieste esplicite di fare più flessibilità, anche se, terzo punto, una domanda specifica su questo, Renzi non ha voluto rispondere con un sì o con un no a una collega che gli aveva chiesto, ma dobbiamo intendere però che ci sarà una richiesta ulteriore di flessibilità sulla prossima legge di stabilità sul 2017 oppure no. Ecco, su questo sia Renzi che Juncker hanno sorvolato, non sono entrati nei dettagli, quindi bisognerà vedere gli sviluppi. Detto tutto questo, ripeto, vi rimando a Focus Economia e domani mattina, perché nel frattempo oggi pomeriggio dovremo tentare di capire meglio quali sono stati i dettagli nel colloquio. Nel frattempo è in corso l'incontro col capo dello Stato. Allora, torniamo al comunicato di ieri sera del Consiglio Supremo di Difesa. Ci sono 2 punti fondamentali ai quali il Quirinale ha tenuto il governo a impegnarlo con chiarezza per lo sviluppo di azioni militari in Libia. Il primo è che queste azioni devono avvenire a sostegno delle autorità libiche, e il secondo è che devono avvenire su richiesta delle autorità libiche. Allora, poiché tutti voi sapete che c'è un quadro di convergenza ancora non formalizzato tra l'assemblea di Tobruk e quella di Tripoli, bisogna innanzitutto capire quanto queste due condizioni sono formali o sono sostanziali. Secondo, i giornali italiani stamattina già hanno pubblicato articoli, per esempio Corriere, Fiorenza Sarzanini, sulle forze speciali italiane che sarebbero pronte a essere impegnate. Si parla del Comsubin, del Varignano, si parla del, di reparti della Folgore e così via, e naturalmente di un dispositivo aereo con velivoli pilotati, non solo con i droni. Terzo, si tratta di capire per fare cosa, e quindi qui resta un punto del tutto aperto su c'è o non c'è e di che tipo è un coordinamento riservato, su che tipo di caratteristiche debba avere questa eventuale azione. Ecco, io mi limito a due altri punti brevissimi. Il problema, come già dimostrato nel 2011 con l'azione voluta e forzata, per così dire, per molti versi da francesi e britannici, e col sostegno americano un po' subita dall'Italia di Berlusconi all'epoca, è che gli interessi nazionali dei diversi paesi europei nelle diverse aree della Libia per quanto riguarda l'energia sono un po' divergenti, e questa divergenza, per quello che riguarda la definizione del nostro interesse nazionale, si deve anche alla dislocazione dei rispettivi impianti energetici in Libia. L'interesse italiano sta soprattutto nella parte orientale della Libia, cioè a un centinaio di chilometri a est di Tripoli, verso la frontiera con la Tunisia, perché è lì che c'è il grande terminale di Mellitah dell'ENI, da cui poi parte il gasdotto sottomarino che arriva in Italia e che raccoglie in una dorsale lungo il confine che scende con la Tunisia verso l'Algeria impianti di estrazione dell'ENI. Mentre invece, per esempio, gli interessi francesi sono concentrati più sulla parte orientale del paese, quindi a scendere sotto Tobruk, per intenderci. E sono interessi che politicamente rappresentano un problema, perché questo spiega perché l'Italia ha avuto riservatamente con i suoi servizi, con l'AISE, i servizi esteri, più contatti con l'assemblea di Tripoli, mentre invece il resto dell'Occidente più contatti con l'assemblea di Tobruk, e questo è un ulteriore problema aperto. Quanto poi, fine della mia introduzione, alla presenza di reparti speciali militari italiani in Libia, già giorni fa vi abbiamo detto la versione ufficiale della difesa è sempre stata quella di smentirli. Sappiamo con ragionevole certezza che vi sono francesi invece impegnati in Libia, e vi sono nell'ambito di ci sono diverse prove per questo, insomma ci sono non solo i tracciati radar dei velivoli specializzati francesi in circuito sulla Libia per la ricognizione e l'identificazione di obiettivi al suolo, ma ci sono anche alcune azioni che sono state condotte tra novembre e dicembre che fanno pensare che i francesi siano sul campo. La stessa cosa con ragionevole certezza avviene da parte delle forze speciali americane lungo invece il dorsale libica che ci interessa di più, quella lungo il confine tunisino algerino. Della Gran Bretagna, punto interrogativo, ci sono dichiarazioni ufficiali che però risalgono alla seconda metà dell'anno scorso, che davano la disponibilità fino a 1000 uomini in un contingente di forze speciali della SAS, però in un dispositivo a guida italiana. Sembrava quindi che si dovesse attendere l'evoluzione della definizione di questo dispositivo militare congiunto. Non abbiamo prove o sospetti che ci facciano ragionevolmente intendere che i britannici siano già sul terreno. Invece abbiamo qualche ragionevole sospetto che la versione della difesa, che ha smentito fino a questo momento la presenza dei reparti speciali italiani, sia una più che comprensibile linea di riservo, perché quando a novembre e a gennaio, a novembre 2015 e a gennaio di quest'anno, sono avvenuti attentati e attacchi all'impianto di Mellitah, e a seguito dell'ultimo di questi poi ci sono stati alcuni feriti libici di coloro che lavoravano nell'impianto, che sono stati trasferiti al cielo in Italia, ecco, in queste circostanze è sembrato un po' a tutti i colleghi che seguono da vicino queste vicende che appartenenti alle forze speciali italiane fossero nell'area intorno a Mellitah, cioè dove si concentra l'interesse strategico ed energetico italiano. Le cifre dell'importazione: i dati più aggiornati sono relativi a metà del 2015. Naturalmente dopo il 2011 le importazioni dalla Libia erano scese verticalmente. A metà dell'anno scorso noi avevamo su un consumo, sapete che siamo dipendenti al 90% per le risorse fossili che sono necessarie al nostro fabbisogno energetico, e per quello che riguarda le quote percentuali da cui a metà dell'anno scorso dipendevamo dalle paesi fornitori più rilevanti, ecco, il 47% delle forniture di gas italiano viene dalla Russia, veniva dalla Russia, subito dopo il 12,3% dall'Algeria e ha un'incollatura al 12% dalla Libia, cioè l'Eni ha mantenuto in esercizio quindi il gasdotto transmediterraneo che parte da Mellitah, e il 12% del nostro consumo di gas continua a dipendere dalla Libia. Detto tutto questo, tentiamo di capire da una persona che ne sa molto di più di quanto ne sappia io. Abbiamo con noi Arturo Varvelli, che è ricercatore dell'ISPI, cioè l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che è il think tank italiano riconosciuto nella rete internazionale più importante che abbiamo nel nostro paese. Grazie di essere con noi, Varvelli. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, iniziamo a capire, secondo la vostra lettura del comunicato ieri del Consiglio Supremo di Difesa, quelle due condizioni che sembrano rappresentare il punto oltre il quale l'Italia si può spingere ufficialmente a una missione militare, in assenza dei quali invece non può avvenire, cioè la richiesta di autorità libiche e il sostegno delle autorità libiche, è compatibile in realtà anche con l'assenza di un accordo nazionale, perché attualmente mi pare che ancora non ci sia, e che si sia solo una delle parti a chiedercelo, oppure no, secondo voi? No, secondo me non è compatibile con il fatto che sia solo una delle parti a chiederlo. E non è compatibile perché tutta la linea di politica italiana relativamente alla crisi libica, che ci ha visto onestamente sulla prima linea del fronte, perché politicamente l'Italia si è molto esposta, sì, relativamente a questa crisi. Certamente l'Italia da sola non può risolvere il caso libico, ma certamente più di tutti i partner europei si è spesa a livello politico, e si è spesa a livello politico prima dando un supporto a Bernardino León, che per un anno ha cercato di condurre una trattativa, e arrivando in realtà a poco, e poi ancora nelle ultime settimane con il cambio di passo che c'è stato di Martin Kobler. Tutto naturalmente non si è risolto, ma la strategia italiana è sempre stata finalizzata a far sì che ci fosse un governo di unità nazionale che in qualche maniera poi potesse essere un referente unico e poi si potesse rilegittimare, uno, alla comunità internazionale, e due, anche in parte alla popolazione libica, con tutte le difficoltà che ci sono naturalmente di avere un'opinione pubblica libica come noi la intendiamo in questo momento. Avere un referente unico naturalmente facilita anche una relazione con i paesi occidentali, con l'Europa e con l'Italia stessa, naturalmente nel coinvolgimento di tutti i nostri interessi e anche in un piano di stabilizzazione. A me pare che capo di Stato abbia dettato qual è sostanzialmente la linea, uno dicendo che è impensabile che i nostri uomini possano andare boots on the ground a stanare ISIS, e mi pare logico, non c'è nessuna chance in un governo occidentale, in un paese occidentale, fare un'azione simile. Quindi, tradotto per chi ci ascolta, significa: se qualcuno pensa che ci sia una brigata corazzata o comunque una o più brigate dell'esercito italiano impegnate in un'azione sul terreno in Libia, magari anche altri con altre forze convenzionali di paesi europei, non si parla di questo contro ISIS. Esattamente, non si parla di questo. L'obiettivo è quello sostanzialmente di far combattere i libici, di far combattere un nuovo governo libico che in qualche maniera ha una nuova autorità nel paese, e di far combattere il governo libico naturalmente contro lo Stato islamico, naturalmente con un supporto occidentale. Questo è dato per scontato, ed è questo il tipo di intervento che si sta prefigurando, a mio giudizio. Questo tipo di intervento, quindi diciamo addestramento, guida, uomini delle forze speciali, uomini dell'intelligence che segnalano gli obiettivi, certamente, più naturalmente una sorta di copertura aerea, ma abbiamo visto che questa sostanzialmente è già cominciata dietro alla politica di bombardamenti, chiamiamoli selettivi, di cui ha detto Obama un paio di settimane fa e di cui abbiamo già visto all'opera naturalmente settimana scorsa con il bombardamento del campo, diciamo, di addestramento di jihadisti, certamente vicini all'ISIS, ma forse non tutti solamente dell'ISIS, perché lì dentro c'è anche Ansar al-Sharia Tunisia, ci sono vari gruppi che possono essere alleati, e che diciamo è stato il primo obiettivo di questa nuova strategia statunitense. Quindi, e del resto penso... già a metà novembre, con un'azione, esatto, con un raid aereo guidato da qualcuno a terra, come era evidente, certo, mirato, con quell'azione aerea a metà novembre Washington dichiarò di aver eliminato il capo dello Stato Islamico in Libia, Abu Nabil al-Anbari, quindi, esatto, a Derna. E quindi si sta cercando di lavorare sotto traccia, diciamo, nel silenzio, anche perché questo ha un vantaggio, ha il vantaggio, finché durerà, diciamo, di non permettere allo Stato Islamico in Libia di alzare la propaganda contro un intervento occidentale, perché questo permetterebbe, se fosse un intervento molto aperto e, diciamo, molto invasivo, come ne abbiamo visto in passato, tanto per nominarne qualcuno, Iraq e Afghanistan, questo permetterebbe ai miliziani dello Stato Islamico di compattare attorno a sé non solamente le forze che gli sono fedeli in questo momento, ma anche forze jihadiste o islamico-radicali in senso più ampio, che non sono affatto affiliate allo Stato Islamico. Allora, io qui le devo fare una domanda con preghiera di cercare di spiegare a chi non segue da vicino queste cose, quindi non ha gli elementi per capire la complicata geografia, stratigrafia e distribuzione anche sul territorio delle diverse frange dell'islamismo in Libia. Ma la domanda che le faccio io è questo: poiché l'Italia, ho tentato di spiegarlo prima, ha gli impianti sulla parte verso Tunisia e Algeria dell'ENI, soprattutto lì, c'è anche altrove, ma soprattutto lì, e di lì parte il gasdotto italiano, e quindi ha avuto rapporti storici più stretti che il resto dell'Occidente con l'Assemblea di Tripoli, questo significa rapporti anche con frange islamiste vicine ai fratelli musulmani spodestati in Egitto dall'attuale presidente, nonché con altre frange che sono invece finanziate dalle monarchie, dagli Emirati del Golfo, che sono di islamismo sunnita. Rispetto al resto dell'Occidente, invece, che ha avuto rapporti soprattutto con, nella parte orientale, con Tobruk, e ovviamente lì l'influenza dell'Egitto è più diretta, c'è un problema politico che divide noi come italiani per via di questo passato da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, che ha a che fare con i rapporti diversi con le diverse frange islamiche sul terreno in Libia e sulla via di composizione, secondo lei, oppure questo sarà un problema? Perché a me sembra un problema molto serio, a dire la verità, proprio alla luce di quello che lei chiedeva. Secondo me è più in chiave, diciamo, di interessi geopolitici che di interessi, diciamo, relativamente a affiliazioni islamiste. Allora, lei dice che è serio. Aspetti un secondo, perché abbiamo un minuto di informazione stradale e poi le do immediatamente la parola per spiegarci perché questo è un problema serio tra Italia e il resto dell'Occidente. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo tentando di capire, con chi ne sa più di noi, come interpretare quel comunicato che è venuto ieri del Consiglio Supremo di Difesa, che ha dettato le condizioni per evolutive, ma insomma ormai nero su bianco, per una partecipazione italiana a un'azione militare in Libia, e eravamo fermi a questa domanda: se il rapporto storico, che si spiega anche in via, per via dell'interesse nazionale prevalente sulla parte orientale, occidentale, perdonate, della Libia, dove sono gli impianti dell'ENI, e quindi rapporti con chi ha Tripoli, fa capo a frange dell'islamismo molto diverse da quelle che invece fanno capo alla parte orientale, cioè all'assemblea di Tobruk. E allora, siccome si tratta di un problema aperto all'interno dell'Islam, perché significa scegliere con chi tra Turchia e Egitto attuale oppure Egitto precedente e islamismo finanziato dalle monarchie del Golfo, deve parlare chi per tentare di metterli insieme, mi sembra un problema rilevante, e il nostro ospite Arturo Varvelli dell'ISPI ci stava dicendo sì, è un problema rilevante, spieghiamo perché. È un problema rilevante, ma innanzitutto c'è una, diciamo, tutta la rivoluzione della crisi libica a partire dal 2011 è nata sulla tensione esistente con i nostri partner europei, certamente se ci ricordiamo nel febbraio-marzo del 2011 certamente l'Italia non aveva interessi, non aveva desiderio a un'iniziativa militare contro Gheddafi. Fummo deboli allora e non riuscimmo sostanzialmente a far percepire la nostra posizione e avere un ruolo di mediazione anche nella crisi, e alla fine facemmo quello che si chiama in gergo bandwagoning, cioè saltammo di fatto sull'iniziativa che poi divenne NATO, e questo ci fu favorevole anche per ci fece lavare le mani dicendo noi non l'avevamo voluta, ma siamo tenuti, certo. Però esatto. Il risultato è stato lo sfarinamento del paese e le fazioni diverse. Esattamente, i nostri interessi sono rimasti giustamente, come ha detto lei, principalmente nella fascia occidentale del paese, perché lì ci sono tutte le infrastrutture nuove, recenti, i nostri interessi petroliferi e del gas, interessi dell'ENI firmati fino al 2046-2047, mentre dall'altra parte in Cirenaica noi abbiamo vecchi giacimenti a 100, a 80 che sono in via di esaurimento, a quelli possiamo facilmente rinunciare mentre a quegli altri no. E quindi ci siamo trovati, il nostro ambasciatore Boccino ad esempio, che è rimasto fino all'anno scorso in Libia, ultimo tra gli ambasciatori ad andarsene via, anche questo è simbolico, ultimo ad abbandonare Tripoli, di fatto si trovava a relazionarsi con un governo, non governo, perché non, ufficialmente non ci si poteva relazionare a pari, ma naturalmente continuavamo a relazionarsi e ancora continuiamo sì, a farlo. Sì. Ed è per questo che la Libia e l'Italia è stata politicamente forse la più intraprendente, naturalmente la maggiormente interessata per questioni economiche, per questioni di sicurezza, di migrazione, eccetera, ma anche perché fortemente spinta dal fatto che abbiamo necessità di ricomporre il quadro politico. E ricordiamo a chi ci ascolta che proprio nella parte occidentale, cioè se guardate la cartina geografica, l'hub dell'ENI Mellitah, a destra e a sinistra, a poche decine di chilometri, sono i due grandi porti, cioè punti di partenza dei flussi migratori verso le isole italiane di certo, migrati, cioè stiamo parlando di Sabrata e Zuara, e quindi è anche per quello che abbiamo un interesse lì a controllare, per così dire. Mi scusi se l'ho interrotto, ma per spiegarlo. No, è assolutamente così. Il problema, diciamo, che politicamente tutto quanto è basato su una ricomposizione del quadro politico che è difficilmente raggiungibile. E allora tutto rimane difficilmente raggiungibile. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli, non dobbiamo essere velleitari, che stiamo lavorando, diciamo, a un piano A che ha comunque, a mio giudizio personale, forse alla Farnesina e alla Presidenza del Consiglio ci credono più di quanto ci creda Varvelli, ha un piano A che ha poche chance. Diciamo. Però allora a questo punto la domanda che fanno alcuni ascoltatori è, sì, ma se noi nel frattempo diamo l'ok alle azioni americane da Sigonella, aspettando che maturi il piano A che non matura, da quello che stiamo spiegando è molto complicato. Nel frattempo però gli altri bombardano e ci andiamo di mezzo come nel 2011 a seguito, oppure no? Questo è un dato molto, molto sensibile naturalmente. Fin quando, a mio giudizio, i bombardamenti sono realmente selettivi come lo sono stati, non sono in grado di sconvolgere i piani, diciamo, delle milizie sul terreno e gli equilibri politici, seppur fragili, e lasciano aperta una speranza di trattativa, allora l'Italia può continuare a tenere questa posizione. Se un nostro alleato, e con questo non intendo forse gli americani, ma più gli inglesi, i francesi che hanno dimostrato, come dire, storicamente negli ultimi anni un grande desiderio di protagonismo sulla Libia, dovessero in qualche maniera compiere degli atti che scavalcassero le nostre ipotesi, certamente allora ci ritroveremmo nella stessa identica posizione del 2011, quella di ritrovare un posizionamento. Purtroppo io la penso come lei e sono un po' preoccupato che i politici italiani su questo, io capisco la prudenza, però visto l'errore del 2011 forse un dibattito un pochino più... L'unica cosa che forse fa meglio diciamo pensare di allora è che il contesto internazionale nel quale era percepito l'Italia del 2011 non è lo stesso. Sì. Eravamo certamente più isolati e cercammo di fare una sponda, mi ricordo allora, sulla questione libica con la Germania che in qualche maniera era a noi favorevole, a un possibile piano italiano o piano italo-tedesco, diciamo. Frattini addirittura lo disse apertamente, sì. E quindi si stava lavorando, ma se ci ricordiamo allora la Merkel poi si ritirò indietro, ma era proprio il periodo di marzo nella quale eravamo sotto fortissime pressioni da sotto schiaffo per altre ragioni, per la politica economica. E quindi adesso è molto diverso, l'Italia si è preso più che un onore, un onere di questo, della questione libica, quindi anche la nostra disponibilità a mettere tutto sommato un contingente militare con alcuni scopi diciamo limitati, ma certamente non è un'ambizione di alcuna nazione europea in questo caso. Quindi io penso che ci sia ancora un margine credibile perché le cose possano in qualche maniera sistemarsi politicamente, seppur la coperta è corta, perché o teniamo dentro il generale Haftar o perdiamo le milizie dimisurate di Tripoli. Quindi il vero nodo politico ancora è la permanenza di Haftar all'interno del nuovo governo di unità nazionale. Ed è per questo io penso che Serraj, il primo ministro incaricato dalle Nazioni Unite, è da diversi giorni a parlare al Cairo, perché il Cairo, diciamo, è Sisi, il protettore, esatto, internazionale di Haftar. Quindi se si trova una soluzione di qualche tipo, perché la coperta non sia corta, allora il governo potrebbe nascere. Abbiamo visto che è anche possibile che ci siano i voti nel Parlamento di Tobruk. Tutto sommato però questi poveri parlamentari rimangono sotto schiaffo delle sia da una parte che dall'altra. Il nostro tempo si sta esaurendo. Io ringrazio Varvelli di aver tentato di spiegare cose che sono oggettivamente dannatamente complicate. Resta il fatto, cari ascoltatori, che noi abbiamo fatto un altro passo verso la forma di una partecipazione all'azione armata. Questo è così, cioè ormai è tutto preparato. Noi abbiamo uno scenario difficile che altri lo rispettino, perché hanno altri interessi rispetto a quelli italiani. Vediamo l'evoluzione della cosa, speriamo in Dio. Appuntamento domani dalle 10 alle 12 a Conti della Belva, però per riparlare di cose europee, di banche, di politica economica italiana. Appuntamento con me, caro Alberto Carnefale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, domani mattina.